in primo piano. L'apertura del Sole 24 Ore, la Cina aumenta i tassi, sia il passaporto europeo per hedge fund e private equity, ma l'apertura più gettonata dei quotidiani è quella sul lodo Alfano, sia il lodo Alfano retroattivo per il Corriere, giustizia, super scudo al Premier per Repubblica, stop retroattivo ai processi, arriva il sì anche dai Finiani per la Stampa, sia il lodo retroattivo ma elite per il Messaggero. C'è chi apre anche con la corruzione, il Fatto Quotidiano, la corruzione dilaga, la casta se ne frega. E poi Rai e quant'altro, le polemiche che poi vedremo più avanti, ma io come al solito in questa anteprima vorrei partire da qualcosa di taglio un po' diverso, e mi ha incuriosito a pagina 25 il Corriere della Sera, va nel quartiere dove l'altro ieri è stato arrestato Alessio Bortone. Ne abbiamo parlato ieri, colui che è stato portato in carcere per quel pugno, anzi la manata, come l'ha definita il suo avvocato, l'infermiera rumena, costata la vita dell'infermiera rumena, ed è stato applaudito al momento dell'arresto e con insulti ai carabinieri. Allora il Corriere con Alessandro Capponi va in quel quartiere a conoscere chi erano i ragazzi che applaudivano: Erbamba e gli altri ventenni, la banda che sta con Alessio. Inutile insistere sui futili motivi, perché guarda che lei l'ha istigato proprio, l'ha provocato, ma tanto, anzi Alessio ci ha pure avuto pazienza. Oppure è inutile cercare di far notare che le donne non si dovrebbero colpire neanche con un fiore, ma se una femmina te attacca come un maschio perde il privilegio d'essere trattata da donna. O ancora, inutile provare a spiegare che quel pugno ha portato la morte, ma l'autopsia non ha detto che gli ha fatto un graffietto? Fatica sprecata anche riflettere sulla gravità del reato ipotizzato, omicidio preterintenzionale, ma l'accusa è sbagliata, doveva essere omicidio involontario. Eccoli qui, Erbamba, Lello, Ermawi e gli altri, quelli che lunedì applaudivano l'amico al momento dell'arresto. Lui, mentre lo arrestavano, sorrideva, sì, sorrideva per noi. Siamo qui nel quartiere tra Don Bosco, la Tuscolana, l'Appio Claudio, dove passano la giornata al bar. Che famo? Niente. E poi, insomma, intercettare un po' gli umori di chi dice: certo, ha sbagliato quel ragazzo, però lei se l'è cercata, E molti che dicono: l'amicizia qui è tutto, ha sbagliato, ma certo, può capitare. Ovviamente a dire: non c'è razzismo, ma che fascismo, non ci interessa nulla della politica, pochi lavorano. E poi alla fine, scrive Alessio Capponi, Alessandro Capponi, mettono anche un cartello alla fermata di Anagnina, proprio in cima all'altarino costruito in memoria di Maricica, nel quale, oltre alle sentite condoglianze, spiegano che loro hanno fatto tutto ai fini di nessuno scopo politico razzista. Solo che quel ai fini, ai, c'è anche l'H. Hanno messo anche un H di troppo. Erbamba e gli altri ventenni, la banda che sta con Alessio, ma anche su Repubblica, l'applauso ad Alessio. Chiara Saraceno, che è una sociologa, in prima pagina di Repubblica scrive proprio un editoriale su questi applausi. Non ho dubbi che Alessio Bortone non intendesse uccidere l'infermiera rumena quando le ha sferrato un pugno, ma lo stesso vale forse per la giovane rumena che qualche anno fa colpì con l'ombrello un'altra giovane donna italiana, perforandole un occhio, causando così un'emorragia violenta che provocò una morte quasi immediata. Eppure la reazione dell'opinione pubblica, dei politici, dei cosiddetti esperti è stata molto diversa, scrive Chiara Saraceno. Gli applausi ad Alessio Bortone, quasi fosse un eroe vendicatore, gli insulti ai carabinieri che lo portavano in carcere sono speculari al modo in cui invece fu trattata la giovane rumena diventata assassina per un gesto maldestro, accusata di essere una belva violenta e assetata di sangue. L'episodio fu subito inquadrato come esempio della pericolosità dell'immigrazione, in particolare rumena, di loro contro noi. E allora la politica si interroga, come titoli di apertura dei vari giornali, sul primo sì al lodo Alfano retroattivo, come titolo al Sole 24 Ore, pagina 21. La giornata politica è animata da questo e anche dal fatto che Silvio Berlusconi è tornato a Roma dopo la convalescenza dell'operazione, e da oggi riprenderà in mano la situazione per quel che riguarda soprattutto il partito, il Popolo della Libertà. Primo sì al lodo Alfano retroattivo, come detto, ieri è stato approvato con grande polemiche tra le forze politiche. L'emendamento discordia è quello del presidente relatore della legge Carlo Vizzini del Popolo della Libertà, risale a fine settembre, prevede, come scrive Donatella Stasio, che i processi al Premier e al Capo dello Stato, anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della Camera, della carica, scusate, possano essere sospesi con deliberazione parlamentare. Dunque, anche i processi vengono sospesi anche se relativi a fatti antecedenti all'assunzione della carica. Questo però se c'è un voto da parte del Parlamento ed è rifiutabile come scudo, questo fa sapere il presidente Vizzini. Certo, questo ha animato la questione politica, è sempre la giustizia in primo piano, tanto che si fa sapere, per esempio, sul Corriere della Sera Francesco Verderami scrive che questo è un primo passo, visto che anche i finiani nella commissione hanno votato a favore di questa retroattività del lodo. Questo potrebbe essere il margine di una ricomposizione tra Berlusconi e Fini. Francesco Verderami, retroscenista principe del Corriere della Sera, dice che l'ex leader di AN, Fini, si dice orgoglioso di portare i segni di un bombardamento mediatico dal quale sono uscito in piedi, imputando al Cavaliere l'offensiva sulla vicenda della Casa Monte Carlo, ma al momento si starebbe lavorando per una tregua. Per giungere alla pace, per Verderami, servirà che il sentiero strettissimo dell'accordo sia percorso fino in fondo, solo allora, cioè se ci sarà un accordo sulla giustizia, i due sarebbero disposti a incontrarsi insieme a Bossi, anche se l'accordo è talmente stretto che fa sapere anche Repubblica, Fini prende tempo sulla riforma, in realtà, come scrive Liana Milella a pagina 3, non può essere questa riforma della giustizia una mannaia per i PM e per i magistrati, questa è la bussola di Gianfranco Fini, altrimenti nessun accordo. Invece che i soliti retroscene, i soliti articoli, molto spesso Iena, Riccardo Barenghi, graffia sulla stampa in una riga, sintesi, il lodo al Fini. Questo è Iena oggi sulla stampa, e perché certo l'opposizione molto arrabbiata anche con i finiani e con Di Pietro soprattutto, ma anche il PD che dice lotteremo contro questa retroattività in tutti i modi possibili, perché dicono i finiani, vedete, alla fine hanno votato questa cosa con Berlusconi, mentre i finiani dicono abbiamo sempre detto che avremmo votato questa retroattività, dunque non c'è nessun problema. Però insomma il tema della giustizia torna in primo piano. Come detto, oggi Berlusconi, ieri anzi, è tornato a Roma. Come prima mossa ha visto proprio il guardasigilli Alfano, fa sapere Barbara Fiammeri nel commento politico a pagina 21, e oggi Berlusconi si occuperà soprattutto del partito, come riorganizzare il Popolo della Libertà. La democratizzazione del partito, scrive Barbara Fiammeri, è al centro dei suoi pensieri. Tutti danno per scontato che Berlusconi vorrà mettere fine innanzitutto a una cosa, al cancan di questi giorni, rilanciando i 5 punti programmatici del governo, e soprattutto stop alle riunioni cosiddette semicarbonare di gruppi di parlamentari del partito divisi in correnti e sottocorrenti. Insomma, più unità e meno cene. Questa è la sintesi del capogruppo Fabrizio Cicchitto per quel che riguarda il Popolo della Libertà. Ho trovato molti commenti sul fatto e articoli sul fatto che sia finita, pare, la telenovela Piemonte. Abbiamo sentito anche il GR, il Consiglio di Stato ha posto uno stop al riconteggio dei voti nella regione Piemonte, e dunque il Corriere titola così: vittoria di Cota, stop al riconteggio dei voti. La zarina Mercedes Bresso, che era nostro ospite un paio di giorni fa, scrive Marco Imarisio, ha un cellulare che squilla in continuazione, ora si arrende, e sul PD, sul suo partito, dice: avevo messo in conto che in ogni partito ci fosse una quota di odiatori professionisti. Dunque parla così anche del suo partito Mercedes Bresso. Anche la stampa ovviamente si dedica a questo, l'intera pagina 3. Cota che dice: sicuro delle mie ragioni e quindi del risultato. E tra l'altro la stampa si pone un problema: ora chi paga? Chi paga le spese per questo riconteggio? Spese che sono già state quantificate dagli assessori regionali allo sviluppo economico Massimo Giordano in 450.000 euro. Sono stati richiamati tutti gli scrutatori, insomma è stata messa in moto una macchina, per cui c'è stato un riconteggio finora, ora bloccato. C'era da pagare anche il trasporto delle schede, insomma tutta una macchina che si è messa in moto per controllare 1.894.825 schede, e quindi questi 450.000 euro chi ce li ha sul groppone? Beh, noi, cari ascoltatori, questo è ovvio, ma poi chi li paga? Mercedes Bresso, dice il centrodestra, dovrebbe ora pagare. Ma lei replica, io non ho mai chiesto il riconteggio è stato predisposto da un tribunale, il TAR, e dunque io non ho nulla da pagare. Vabbè, insomma, rimane questi 450.000 euro in questa vicenda che almeno possiamo dire, comunque la pensiate, è definitivamente conclusa. A proposito di costi e politica, oggi Repubblica fa un articolo che trovate a pagina 11, firmato da Simona Casalini, molto interessante. 30 milioni, zero uffici nuovi, ecco l'ultima spesa pazza del Senato. Tema per chi ce l'ha con la casta cosiddetta. 25 milioni di euro solo per i lavori di ristrutturazione, 3 milioni e 700 mila euro per pagare l'affitto a una ex IPAB che fa capo alla Regione Lazio. 1 milione per provvedere ad adeguati arredi, dunque facendo due conti poco meno di 30 milioni di soldi pubblici, tutti già spesi o impegnati nell'arco di 10 anni, con quale obiettivo? Realizzare nuovi uffici per 50 senatori. Dove? Nel pieno centro storico di Roma, a pochi metri da Palazzo San Macuto, Pantheon e Palazzo Chigi. Il risultato a tutt'oggi qual è? Che ancora dal 2003 neanche una stanza è pronta. E che i ponteggi che si affacciano sulla vicina Via degli Orfani, nome non casuale, stanno ancora lì come 7 anni fa. Soltanto la garritta esterna per la security di un palazzo ancora vuoto ha i vetroni scuri montati e si chiedono ancora altri soldi. Lavori infiniti nell'ex orfanotrofio e ora mancano ancora gli arredi. La denuncia è dei radicali, del segretario radicale Staderini, che dice la vera priorità sembra fare girare soldi. Insomma, incredibile, 30 milioni, se è vero, di soldi pubblici tutti già spesi per ristrutturare l'ex orfanotrofio che dovrebbe dare 50 posti per 50 senatori, come se il tema dei palazzi della politica e dei costi dei palazzi della politica non fosse già un tema di cui forse un po' vergognarsi in Italia, visto che già di palazzi ce ne sono e di spese, di affitti già ce ne sono. Oggi Repubblica pone l'accento su questa nuova vicenda. Non è politica in teoria la TV, ma lo è diventato, e oggi trovate ancora una fiumana di articoli, commenti sulla vicenda che riguarda tutta incentrata la RAI, insomma, prima Santoro, poi Milena Gabanelli, poi ora l'ultima vicenda è quella del programma di Fazio e Saviano, che ieri veniva dato per fermato perché costavano troppo gli ospiti, tra cui Benigni. Trovate varie cifre sui giornali, vai a capire poi qual è quella vera. C'è chi dice, come Libero, che Saviano voleva 300.000 euro e Fazio 200.000, Benigni 250.000. C'è chi dice che Saviano ne voleva 80.000, c'è chi dice lo stesso Saviano che sono meno. Insomma, non si capisce niente in questi casi. Sta di fatto che la situazione è di gran confusione. Fabio Fazio fa un'intervista su Repubblica e dice: non può essere una guerra, garanzie serie o salta tutto. Ormai anche Saviano parla del programma usando l'imperfetto e mi sembra significativo. Io aspetto risposte e garanzie, ma al momento le garanzie non sono arrivate e mi sembra difficile andare in onda. Tutto questo paradossalmente il giorno dopo che Mauro Masi, il direttore generale della RAI, ha detto: non è vero che è tutto bloccato, anzi stiamo valutando i costi, ma che vadano anche in onda e tutto sarà sotto controllo. In realtà lo stesso Saviano, per il secondo giorno, ieri con un'intervista, oggi con una lettera, appare in prima pagina di Repubblica. Lo fa con una lettera inviata al presidente della RAI, Garimberti. Caro Garimberti, così non andiamo in onda. Questo è il titolo della lettera di Saviano. E la vede in modo diametralmente opposto Maurizio Belpietro in prima pagina di Libero. Libero apre così oggi: azzeriamo la RAI, ignoriamo Santoro e company, così l'anno zero della TV di Stato può cominciare con un vero servizio pubblico e dei veri giornalisti. Basta coi militanti camuffati da cronisti. E Maurizio Belpietro, tra l'altro, i militanti li cita uno per uno a pagina 3, li mette, eccolo qua, il menù rosso sulla RAI, cioè militanti di sinistra. Corradino Mineo, di Rai News 24, Andrea Vianello con Agorà, Lucia Annunziata in Mezz'ora, la Busi, Maria Luisa Busi, Giovanni Floris con Ballarò, Michele Santoro con Anno Zero, Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa, Milena Gabanelli, Report, Serena Dandini, Gene Gnocchi, anche Gene Gnocchi, Bianca Berlinguer, direttore del TG3, Giovanni Minoli, La Storia Siamo Noi. Mentre 10 anni fa, fa sapere Belpietro, erano questi quelli di sinistra. Enzo Biagi, dice Michele Santoro, Milena Gabanelli e Gene Gnocchi. Insomma, erano quattro e Belpietro dice mai la TV pubblica era stata così smaccatamente faziosa. Dalla parte ovviamente diciamo sbilanciata a sinistra, il contrario di quanto dicono per esempio al Fatto Quotidiano, quotidianamente, o da quanto dice anche oggi l'Unità, che fa un articolo a pagina 10, Mauro, Antonio e compagni, ecco la setta del comando che inabissa Mamma Rai, cioè sono Masi, Antonio Marano, poi Gorla, Verro, Mazza, Paglia, Minzolini, fuori Lainati, che è il vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, ma anche il ministro Romani, ecco la mappa del potere che sta mettendo a ferro e fuoco la TV di Stato. Insomma, da una parte si dice che è smaccatamente di sinistra, dall'altra che è smaccatamente di destra. Sta di fatto che la Rai sempre nel mirino. L'ipotesi dei PM, lo zio dormiva quando Sara è stata strangolata. E questa novità che incredibilmente rischia di affacciarsi nell'inchiesta più ingarbugliata di Avetrana, cioè ora pare che lo zio, una pista dice che lo zio addirittura dormisse, mentre qualcun altro, chi? La cugina, uccideva Sara. Al di là di questo, noi parleremo nel nostro sondaggio della vicenda di Avetrana dal punto di vista mediatico, di come è stata affrontata e di come viene affrontata. Vi chiediamo, secondo voi le TV stanno esagerando? Ne stanno parlando troppo? Votate su radio24.it, è un tema che è attualissimo dal giorno proprio del ritrovamento del cadavere, da quel famoso Chi l'ha visto in diretta. Oggi Michele Serra, con la sua amaca su Repubblica, si dedica proprio a questo. Da molti giorni, a tutte le ore, su tutti i palinsesti, pensosi opinionisti denunciano l'impazzimento mediatico attorno al caso Scazzi. Parallelamente, a tutte le ore, su tutti i palinsesti, si moltiplicano inchieste e retroscena sul caso Scazzi. Ha scritto il sociologo Zygmunt Bauman che la vera cifra della nostra epoca è la dipendenza. Siamo una società drogata e di drogati. Il comportamento dei media spesso ne è una dimostrazione lampante. Il drogato è colui che, credendo di padroneggiare qualcosa, ne è invece comandato fino a diventarne schiavo. Quando parla della droga, specie della sua, finge distacco critico, discernimento nell'uso, ma nella pratica è la droga che governa il gioco. E la maggioranza delle persone che hanno gonfiato il caso Scazzi fino a farne un horror da baraccone è cosciente di alimentare una pratica di infimo valore, solo che non riescono a smettere. Drogati in una società drogata e dunque conformisti, chinano la testa e cercano di piazzare un altro microfono come una banderiglia sul groppone sanguinante del mostro, che non è lo zio o la cugina, è la pubblica morbosità divenuta lucrosissima industria. Questo Michele Serra oggi su Repubblica, ci interroghiamo su questo nel nostro sondaggio alle 8:30. Vorrei aprire la pagina economica dicendo che, come detto, il Sole 24 Ore apre sulla Cina. La Cina aumenta i tassi, questo è anche il tema di Giannino, non tanto i tassi e la Cina, ma parlerà di Cina, del viva la Cina, come è stato titolato oggi 9 in punto, perché chi trova... le opportunità da cogliere al volo in Estremo Oriente. Vorrei segnalarvi che il Foglio fa una conversazione col presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. In prima pagina parla Emma Marcegaglia: sono disincantata dal CAV ma spero in un risveglio liberista. Sommersa di carte, Emma Marcegaglia sta soppesando nella foresteria confindustriale di Via Veneto anche l'accordo sul nuovo patto europeo di stabilità, che dice, da una prima impressione, complessivamente positivo. E fa questa conversazione col Foglio, parla di rigore. Soltanto con il rigore l'economia non cresce. Un messaggio anche a Giulio Tremonti? È stata meritoria l'opera del ministro dell'economia, ma adesso va impostata una nuova politica economica, dice Marcegaglia. Tra le priorità, primo, spingere su ricerca e innovazione. Secondo, sulle infrastrutture, dove è inaccettabile che investiamo e spendiamo pochissimo rispetto all'Europa. Terza priorità, aumentare la produttività per essere più competitivi, con più formazione, deroghe al contratto nazionale, ma soprattutto con la contrattazione decentrata. E la riduzione delle imposte, presidente, l'ha dimenticata. Che direte a Tremonti? Chiederemo di destinare una percentuale dell'evasione fiscale incassata alla riduzione delle imposte a partire dal lavoro e dalle imprese. E nel primo caso la pressione sfiora il 50%, per le imprese giunge anche a livelli del 70%. A questo proposito la Marcegaglia dice: ho condiviso l'invito del direttore del Foglio a vendere il patrimonio immobiliare pubblico. Sulla politica invece Ecco qui Marcegaglia non esita a dire che gli associati della Confederazione mostrano un disincanto verso il governo. Serve qualcosa in più. Su Italia la cultura, diamo più spazio ai privati. La conversazione continua poi a pagina 2. Il disincanto verso Palazzo Chigi non arriva comunque a preferire le elezioni anticipate. Questo no, non facciamo politica, ma non possiamo limitarci a fare opera di lobby per dare voce alle nostre aziende associate. Detto questo, dice la Marcegaglia, non possiamo permetterci di perdere tempo con nuove elezioni quando dobbiamo seguire le indicazioni europee e impostare a livello nazionale una politica pro crescita. Questa è l'intervista con Michele Arnese di Emma Marcegaglia che trovate in prima pagina sul Foglio. Siamo alle segnalazioni conclusive. Oh, sappiate che in tutto il mondo si ruba. E chi non ha mai rubato? Io da piccolo rubavo le caramelle al droghiere sotto casa. A Sesto San Giovanni, chissà se c'è ancora. E temo di no. Il trapano è l'oggetto più rubato al mondo. Svelati i dati mondiali sui taccheggi nel retail, nella grande distribuzione, dal barometro mondiale dei furti del retail. 42 paesi presi in esame. Sapete qual è l'attrezzo che risulta più rubato al mondo? Beh, insomma, la predilezione è proprio per il fai da te casalingo, una speciale predilezione per il trapano. Il trapano. Seguono nell'ordine gli articoli di pelletteria, i prodotti cosmetici, i profumi, i tagli di carne fresca, i giochi per la console, le lamette da barba e poi le cartucce per le stampanti, orologi di marca, bottiglie di champagne, eccetera. In Italia invece no, questo nel mondo. In Italia i trapani elettrici sono solo al settimo posto. Cosa si ruba di più in Italia? Borse e cinture. Poi i lettori MP3 e MP4, le cartucce per stampanti, le pile, le batterie ricaricabili, insomma cose piccole che uno si può mettere in tasca. Al mondo però l'oggetto più rubato è il trapano, il GR.